in primo piano. Buongiorno. Buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Corriere della Sera, anche perché l'apertura del Corriere della Sera è una lunga intervista che poi trovate alle pagine 2 e 3 a Matteo Renzi, intitolata, che il Corriere intitola, Battaglia forte in Europa, perché tra le tante domande che Maria Teresa Meli ha posto al Premier ci sono quelle naturalmente sull'immigrazione, visto quello che è successo ieri con il caos a Ventimiglia, alle tendopoli a Roma e il caos anche in stazione a Milano, di cui avete sentito nei telegiornali ieri, nei GR oggi e di cui sentiremo ancora molto parlare. Vi leggo allora solo questa risposta che appunto riguarda questo possibile piano B, perché il 25 e il 26 ci sarà un vertice europeo ed è, tutti aspettano questo vertice per porre, si dice che insomma una delle prime questioni sul tavolo sarà quella dell'immigrazione appunto. E quindi chiede Maria Teresa Meli, ma se la UE non vi ascolterà, è vero che adotterete una linea più dura sull'immigrazione? E Renzi risponde, nei prossimi giorni ci giochiamo molto dell'identità europea, la nostra voce si farà sentire forte perché è la voce di un paese fondatore. Se il Consiglio europeo sceglierà la solidarietà, bene, se non lo farà abbiamo pronto il piano B, ma sarebbe una ferita per l'Europa. Vogliamo lavorare fino all'ultimo per dare una risposta europea. Per questo vedrò nei prossimi giorni Hollande e Cameron, cioè i premier della Francia e della Gran Bretagna, e li parlerò con Juncker e Merkel, cioè il Presidente della Commissione europea e la Cancelliera. In Europa va cambiato il principio scritto da Dublino 2, c'è una scheda che spiega che cos'è Dublino 2, che regola il diritto d'asilo dal 2003, è votato convintamente da chi oggi protesta contro il nostro governo. Il riferimento è soprattutto a Forza Italia, che appunto votò quel provvedimento con Berlusconi Premier e che adesso però in qualche modo lo contesta. La prima pagina della Repubblica, vi segnalo dalla prima pagina del Corriere della Sera la fotonotizia che è dedicata al primo vero discorso che ha fatto Hillary Clinton, ex First Lady, candidata per il Partito Democratico, si giocherà tutto nelle primarie naturalmente, per le presidenziali del 2016, pensate, si vota nel novembre del 2016, quindi manca ben più di un anno, ma la campagna elettorale è di fatto iniziata. Ieri con questo grande comizio appena fuori New York, che chi segue Twitter un po' ha visto, ha scatenato, non so, milioni credo di commenti. Il titolo del scelto dal Corriere, la foto ritrae Hillary abbracciata dal marito Bill Clinton, è Hillary contro i privilegi per pochi. E poi c'è tantissimi reportage, pensate da pagina 16 a pagina 24, con anche un commento di Alan Friedman, e in prima pagina richiamato il commento di Maria Laura Rodotà in nome della madre, perché Hillary ha ricordato appunto anche la figura della madre, di sua madre. La Repubblica apre sulla questione dell'immigrazione, dei migranti, la rabbia delle frontiere e anche con le dichiarazioni di Renzi, che non ha dato un'intervista alla Repubblica, ma questa cosa sull'importanza di una risposta europea l'ha detta pubblicamente più volte anche ieri, quindi Renzi alla UE cambiare il piano. E poi c'è anche un reportage di Federico Rampini sul discorso di Hillary e il titolo scelto dalla Repubblica è La prima di Hillary, la Casa Bianca nel mio destino. E poi leggeremo, magari se c'è tempo, una parte del racconto che fa Roberto Saviano di questa storia incredibile dei tre ragazzi, dei tre ragazzini giovanissimi, maggiorenni, ma di poco, latinoamericani che hanno aggredito un controllore su un treno della Nord 2 giorni fa per il semplice motivo che veniva chiesto loro il biglietto e lo hanno aggredito con un macete, il braccio di questo controllore è stato salvato, però sicuramente ha appena 31 anni, anche lui è molto giovane, una storia incredibile. E quindi Roberto Saviano che ci racconta un po' come funzionano queste gang a cui questi tre ragazzini si dice appartengano, e il titolo del racconto è Quel codice rosso sangue dei bambini con il macete. E poi dalle pagine interne una pagina intera che anche qui vedremo poi nel dettaglio di Ettore Livini, che in Grecia ha trascorso tanto tempo e qui ci racconta di questo ultimatum di Bruxelles. Oggi infatti si dice che oggi dovrebbe esserci questa intesa o sarà il disastro. La prima pagina del Sole 24 Ore è dedicata alla scadenza, un po' incubo per quasi tutti noi, che è tra 2 giorni, la scadenza dell'acconto IMU-TASI, che è appunto il 16 giugno. Via l'acconto per 26 milioni di contribuenti. Tassa sull'abitazione, le aliquote sono state ridotte solo, pensate, nel 2,2% dei comuni. Entro martedì, quindi appunto dobbiamo pagare tutti questa prima rata e nel 10% dei casi ci sarà un aumento in vista a dicembre. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore anche la questione greca, naturalmente l'out-out di Tsipras con servizi che poi trovate a pagina 5. l'intervento dell'arcivescovo di Chieti Vasto, Bruno Forte, come ogni domenica, che ci ricorda le vicende ancora torna indietro alla Seconda Guerra Mondiale, ci racconta ancora una volta come dovremmo imparare dalla storia, soprattutto per quanto riguarda appunto le grandi guerre, ma difficilmente lo facciamo. E poi la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, come ogni domenica, il nostro collega di finanza si concentra su un titolo quotato, questa volta è OVS, che è la più grande catena italiana di abbigliamento, anzi in Italia è la più grande catena di abbigliamento in assoluto. Il titolo è Non solo Italia, la sfida è crescere anche all'estero, cala il debito netto, e poi trovate appunto l'analisi del bilancio a pagina 18. La Stampa ha invece la fotonotizia dedicata ai migranti, è una foto scattata al confine francese tra Italia e Francia, il confine tra Italia e Francia vicino a Ventimiglia, e con questi profughi bloccati al confine. Il titolo scelto è Pronta la bozza UE sui rimpatri, è appunto una nuova misura che probabilmente verrà discussa, come dicevamo, al vertice del 25-26 giugno, magari anche prima. Ma vi leggo soprattutto una parte dell'editoriale di Mario Calabrese, che è il direttore della Stampa, e poi magari lo confronteremo con altri editoriali di tono completamente diverso, perché lo trovo un richiamo alla realtà molto di buon senso, molto saggio, ma che forse quasi da mandare a memoria, nel senso che in questi giorni si sentono delle dichiarazioni o comunque vengono fatte le dichiarazioni con dei toni talmente forti che non lasciano spazio in realtà al ragionamento, e questa è la cosa peggiore quando poi ci sono quando parliamo di vite umane. Scrive Mario Calabresi: viviamo in un'epoca di semplificazioni assolute, di esagerazioni dettate dalla pancia e di tragica mancanza di buonsenso. Un'epoca in cui manca la memoria, ma ancor più la razionalità. Non si tiene più conto di numeri, proporzioni e contesti. Non si capisce che la complessità non si affronta e non si risolve con i proclami, ma con un lavoro faticoso, in cui l'egoismo dei singoli, siano essi stati, regioni o comuni, rischia di essere letale. Lo scorso anno sono arrivati dal mare 170.000 migranti, nei primi 5 mesi del 2015 solo 56.000, e questo ha avuto il potere di destabilizzare un'Unione Europea di ben 500 milioni di persone e di mettere in scena un vero e proprio psicodramma. Significa che gli arrivi sono pari a uno ogni 3.000 abitanti, ma ogni nazione si è chiusa a riccio, interpretando a suo favore le regole e chiudendo a singhiozzo le frontiere. Negli ultimi 3 anni, in Turchia, nazione con 75 milioni di cittadini, i rifugiati arrivati dalla Siria e dall'Iraq sono stati oltre 2 milioni, uno ogni 35 abitanti. 200.000 sono arrivati in pochi mesi solo nell'area di Kobane per sfuggire all'offensiva dell'ISIS. E poi trovate il resto dell'articolo a pagina 22, che ripete un po' proprio un richiamo alla realtà, utilizzando i numeri, ma soprattutto un richiamo a ragionare e a non, come dice Calabresi, usare la pancia per ragionare. Il Messaggero, anche in questo caso, titola sulla questione dei migranti: Renzi sfida la Francia, perché come sapete il problema è che Parigi ha chiuso la frontiera di Ventimiglia, creando molta tensione. La fotonotizia però è ancora diversa ed è dedicata a una decisione che ha preso Barack Obama, che gli Stati Uniti sarebbero pronti a schierare 5.000 uomini sul Baltico, perché Obama vuole scoraggiare la possibile aggressione della Russia. Sapete che al G7 che si è tenuto nello scorso weekend vicino a Monaco di Baviera, vicino a Garmisch-Partenkirchen, questa località della Baviera, Obama è stato molto duro con Putin e ha detto a tutti di considerarlo ancora un pericolo, e ha anzi invitato l'Unione Europea a rinnovare le sanzioni contro la Russia. Poi sapete anche tutte le sanzioni economiche, tutta la discussione che ne è seguita questa settimana, quando poi Putin è venuto anche in Italia, a Milano, per Expo. Ultima prima pagina che vi segnalo prima della pausa per il meteo, quella di Avvenire: profughi si agisce, allestite un campo a Roma, presto anche a Milano, Renzi vedrà i leader europei. La fotonotizia però è dedicata al grande ranuro degli scout che c'è stato ieri a Roma, con 100.000 arrivati da tutta Italia per abbracciare Francesco, che ha fatto questa bellissima dichiarazione: nel mondo si costruiscono tanti muri, cari scout, voi continuate a costruire dei ponti. Ci sentiamo subito dopo la pausa. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali. Vediamo il sobrio titolo del giornale, che è Tutte le balle sugli immigrati, con un articolo di Gianni Calessin che racconta appunto quelle che secondo il giornale sono le balle che racconta il governo o in generale la sinistra, e poi un editoriale di Piero Stellino di tono molto diverso da quello che vi ho letto di Mario Calabrese. Anche qui ve ne leggo una piccola parte, che è questa: la presenza di immigrati che non si limitano più a usare il nostro paese come un corridoio di transito verso l'Europa del Nord, ma diventano stanziali, sta destabilizzando l'Italia. Alcuni immigrati, la cui cultura non dà palesemente alcun valore alla vita, né alla propria né tantomeno a quella degli altri, si trasformano volentieri in criminali che mettono a repentaglio la sicurezza degli italiani per procacciarsi quei soldi che dovrebbero guadagnare se si fossero integrati e avessero un lavoro. Le cronache incominciano a raccontare di invasioni di appartamenti, aggressioni e pestaggi, rapine e, quel che è peggio, di uccisioni di gente inermi. Ecco, queste sono le parole, forse quelle non dettate proprio dal ragionamento di cui parlava Mario Calabresi, anche perché a Ostellino vorrei chiedere se tutti questi immigrati non danno alcun valore alla vita, perché la rischiano nelle traversate che affrontano del mare. Ma ci sono tante cose che forse vorrei chiedere a Ostellino, ma probabilmente non gli chiederò mai. Comunque, questi sono editoriali, come vi dicevo, di tono molto diverso. Poi ognuno di noi può giudicare quello che è, secondo appunto ciascuno di noi, quello che interpreta meglio la realtà. Il titolo di Libero: Renzi cadrà sugli immigrati, il premier del caos. Giampaolo Pansa, l'articolo di Giampaolo Pansa. Poi c'è anche un altro articolo di Maurizio Belpietro. Quello di Pansa è: ha snobbato il fenomeno e sprecato il semestre europeo. Quando l'emergenza è scoppiata, il chiacchierone fiorentino non ha fatto nulla per governarla. Ha saputo solo chiedere aiuto a Bruxelles, che l'ha scaricato. Il paese non glielo perdonerà. E poi anche una, non una fotonotizia, ma una vignetta con quella che probabilmente nell'intenzione di chi ha fatto questa vignetta è una drag queen che prende a calci il sindaco Marino. Il titolo è Marino becca fischi persino tra i suoi gay, con un reportage dal Gay Pride di ieri, dove poi vedremo su altri giornali invece c'è scritto che Marino tutto sommato è stato accolto abbastanza bene. Ricorderete che aveva fatto qualche mese fa questa mossa, in realtà un po' azzardata, perché non completamente rispondente alle attuali leggi italiane, cioè aveva registrato le unioni tra eterosessuali come unioni civili, anche se una registrazione del tutto nulla, perché appunto in Italia non esiste una legge sulle unioni civili. Il Fatto Quotidiano titola con un'intervista a Barca, che ricorderete è un ex ministro, che poi è un membro del PD, a cui è stato affidato un'inchiesta sul partito. L'inchiesta è finita, Barca l'ha consegnata ieri a Renzi, che poi se ne dovrà occupare. Il riassunto che ne fa il Fatto Quotidiano è: il PD è un partito feudale, dallo strapotere medievale dei capi bastoni alle degenerazioni miserabili, passando per le infiltrazioni nelle primarie. Il dossier dell'ex ministro che chiede nuove regole sulla trasparenza. Tra due giorni la relazione della commissione speciale che dovrà dare indicazioni sullo scioglimento del Campidoglio legato all'inchiesta mafia capitale. Il manifesto titola Il naufragio dell'Europa, con una foto scattata ieri a Ventimiglia. La Francia chiude la frontiera di Ventimiglia per impedire il passaggio di poche decine di persone. A proposito, appunto, erano 80, si dice, e ci sono alcuni giornali che titolano L'invasione di Ventimiglia. 80 persone non credo siano un'invasione, anche se sicuramente non sono un bel segnale, o il fatto che poi si siano asserragliati sugli scogli, abbiano minacciato il sciopero della fame, sicuramente degli atti molto eclatanti, però insomma invasione mi sembra una parola un po' forte. Il manifesto tra l'altro ci ricorda che proprio in questi giorni cade l'anniversario dei 30 anni del trattato di Schengen, che sapete, quello che ci permette di passare da un paese all'altro dell'Unione Europea senza esibire un documento di identità. E scrive il manifesto: a 30 anni dall'approvazione di quel trattato, l'Unione è più disunita che mai. E poi una fotonotizia, una foto del sindaco Marino ieri in piazza durante il Gay Pride di cui dicevo. La grande Roma dei diritti sfila ed è Marino friendly, appunto, come vi dicevo, ognuno ha la sua interpretazione. La prima pagina della Gazzetta dello Sport: il campionato è finito e quindi naturalmente inizia il grande carosello, la grande giostra del calciomercato. Il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport: il Milan punta su una coppia da record, fatta cioè da Jackson e Ibrahimovic, un sogno da 589 gol, perché il colombiano, che sarebbe un affare praticamente chiuso, e lo svedese, cioè Ibrahimovic, che però scrive la Gazzetta, è oggetto di una trattativa non facile perché il Paris Saint-Germain se lo vuole tenere stretto, segnano in media una rete a partita in due. Ma passiamo alle pagine interne dei giornali. Dal Corriere della Sera vi segnalo un'inchiesta di Federico Fubini sugli assegni di invalidità. Sapete che sono una delle tante questioni che zavorrano i conti dell'INPS. In un anno 50.000 indennità in più. Il record ce l'ha Oristano, una città della Sardegna, le prestazioni INPS per il 5% degli abitanti a Roma. Qui ci sono tutti i numeri e sono effettivamente abbastanza impressionanti. Tutti i numeri divisi per regione con i record. Con la Calabria che ha l'aumento il più alto negli ultimi due anni, più 8,4%, seguono Molise, Lazio, Sicilia, Puglia, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. E poi appunto questo record invece di aumento per singola città che è detenuto da Oristano. Una pagina della Repubblica dedicata a Mattarella, che ieri ha fatto questa dichiarazione dicendo di aprire la residenza estiva riservata al Presidente della Repubblica, che è Castel Porziano, l'aprirà tutta l'estate a persone con difficoltà fisiche, e poi un articolo di Filippo Ceccarelli che fa un po' il punto sulle ultime uscite di Mattarella, che non so, con questo atteggiamento un po' che finalmente ha un po' rotto il protocollo, è sembrato molto, molto caldo anziché freddo. Ricorderete la battuta che ha fatto a Tarantino che riguardava Mr. Wolf, il personaggio di Pulp Fiction che risolveva i problemi o diceva di risolvere i problemi, poi in realtà non li risolveva. Ma quindi l'articolo di Filippo Ceccarelli: dall'apertura del palazzo al ricordo di Pulp Fiction, Sergio scongela il colle. L'approfondimento di Ettore Livini sulla Grexit, cioè la possibile uscita della Grecia dalla zona dell'euro, intesa oggi o Grexit devastante, quattro carte nel futuro europeo, quindi tutto questo, i possibili scenari. Vi dicevo la pagina invece di Roberto Saviano dedicata a queste gang latine crudelissime di cui farebbero parte questi tre giovanissimi latinoamericani che hanno aggredito Carlo Di Napoli, il capotreno di 31 anni a cui è stato quasi tagliato un braccio con un macete. Pensate la scena, cioè viene chiesto il biglietto e un ragazzino di 19 anni tira fuori dallo zaino un macete. Violenze organizzate militarmente, ci racconta Saviano, puntano al monopolio dello spaccio, sono le maras salvadoregne di cui fanno parte gli aggressori. Davvero è una pagina intera che veramente vi vale la pena leggere se vogliamo, come diceva ancora una volta Calabresi, capire piuttosto che giustamente prima indignarci, spaventarci, però poi capire. E allora, per esempio, Saviano conclude: il mio suggerimento per comprendere il fenomeno è dedicare attenzione all'opera di Christian Poveda, regista francese di origine spagnola, riuscito a entrare come nessun altro nella vita quotidiana delle maras con un bellissimo documentario La vida loca, il cui successo negli Stati Uniti spinse i media a chiedere conto al governo salvadoregno. Dal docufilm emerge una storia di miseria e disperazione, perché le maras capitalizzano la disperazione e vengono utilizzate dai grandi gruppi di narcotrafficanti come se i loro associati fossero degli schiavi. Poveda venne ucciso nel 2009 dagli stessi che lo avevano fatto entrare nel mondo chiuso delle maras. E poi un aggiornamento sulla vicenda di Formigoni, l'ex governatore della Lombardia che è al centro di una serie di inchieste per corruzione, finanziamenti illeciti. Adesso esce un nuovo capitolo di tutti i pasti a base di champagne, 800 euro a pasto di champagne che si faceva pagare da Massimo Guarischi, ex consigliere di Forza Italia, che è finito in carcere per tangenti nel marzo del 2013. Prima era toccato ad Accò, un faccendiere che però era in carcere da qualche anno, quindi bisognava trovare qualcun altro che aprisse il portafoglio durante queste cene. Comunque l'inchiesta dei PM testimoniano appunto che tutte queste cene nei più bei ristoranti di Milano, di Formigoni, erano a base di champagne e tutte pagate da qualcun altro, qualche altro politico, e quindi naturalmente il legame con le inchieste per corruzione, tangenti, eccetera. Passiamo un attimo al Sole 24 Ore prima di fermarci per la pausa per il traffico, perché qui, come vi dicevo, a pagina 3 trovate tutto quello che c'è da sapere sull'acconto appunto della TASI IMU che dovremo pagare in 26 milioni di contribuenti tra due giorni. E poi un altro approfondimento sulla Grecia, in questo caso fatto da Beda Romano da Bruxelles, l'ultima offerta di Tsipras, un'intesa sostenibile. Anche qui un'infografica che spiega quali sono le scadenze dei prossimi giorni. L'ultima segnalazione dalla Stampa, un'intervista a Gianluca Poletti, ministro del lavoro, che spiega: col Jobs Act i contratti stabili sono stati quasi raddoppiati in questi pochi mesi in cui è entrato in vigore il Jobs Act. Ci lasciamo un attimo per il traffico e ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli per l'ultima parte della nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Eravamo nelle pagine interne, vi segnalo sulla stampa un articolo che credo sarà il primo di una serie dedicato ai 150 anni della scalata del Cervino, che fu il 14 e il 17 luglio del 1865. Il Cervino è la quinta vetta delle nostre Alpi, 4.478 metri, sicuramente una delle più affascinanti. Questa scalata dei due alpinisti Whymper e Carrel, appunto di 150 anni fa, e le celebrazioni saranno dal 10 al 19 luglio con molti eventi in loco. La vetta più amata che gli italiani devono riscoprire, questo è il titolo. Sul Messaggero due pagine dedicate a Fiumicino, perché ricorderete tre settimane fa c'è stato l'incendio che ha bloccato il Terminal 3. Ancora adesso non si capisce se il Terminal 3 è in sicurezza, e il Messaggero racconta quanto sia sconvolgente innanzitutto la lentezza, appunto, di capire se ci sono ancora dei pericoli, ma soprattutto il problema che dopo, scusate, non tre settimane, 38 giorni dal rogo, manca il verdetto finale della ASL, che deve certificare per esempio la salubrità dell'aria, e quindi lo scalo, che è il più grande scalo d'Italia, funziona di fatto ancora a singhiozzo. Dalle pagine interne di Libero vi segnalo un'intera pagina di Antonio Socci dedicato a Medjugorje, alla Madonna di Medjugorje e alle dichiarazioni di Papa Francesco. Secondo Antonio Socci, che è forse uno dei più assidui critici di Papa Francesco, le ultime uscite di Bergoglio, dettate dal suo scetticismo personale, sono state molto forti, ma ci spiega Antonio Socci, che non credo abbia parlato personalmente con Papa Francesco di questa questione, ma è convinto di poter interpretare il pensiero di Bergoglio: il Vaticano non vuole mortificare i tanti devoti sinceri, solo evitare lo show di certi veggenti. E quindi, appunto, la Chiesa non è contro Medjugorje, la sta solamente purificando. Se volete anche approfondire la questione di Fabrizio Barca e della sua relazione sulle magagne del PD, tantissime secondo lui, lo trovate sul Fatto Quotidiano. Il PD è fermo al Medioevo, qui comandano i capi bastone, con ulteriori dettagli sulla relazione che, appunto, quello che viene definito l'esponente Dem, cioè l'esponente dell'area Dem del PD, ha fatto ieri, dicendo anche queste parole molto forti: ci sono degenerazioni evidenti e miserabili. Ma veniamo ai supplementi culturali, cominciando naturalmente dal nostro, La Domenica, con il breviario di Gianfranco Ravasi, intitolato oggi Intelligenti per contatto, con una citazione di Democrito, il pensatore del V secolo a.C. Pensate. Una volta a teatro, un giovane si vantava di essere sapiente perché conosceva molti sapienti. Un filosofo gli replicò: anch'io conosco un gran numero di ricchi, però questo non mi ha reso più ricco. E poi commenta Ravasi: alcuni scrittori dei primi secoli cristiani riferiscono questo episodio identificando quel filosofo con Democrito, un pensatore del IV secolo a.C. A lui, infatti, sono assegnate varie massime, spesso dotate di grande incisività. Ecco un solo esempio: il mondo è una scena, la vita un passaggio. Vieni, vedi e te ne vai. Suggestivo è anche l'apologo proposto: ci sono persone che sgomitano per avere nel loro pedigree una lista di conoscenti qualificati, intellettuali, personalità dello spettacolo e della politica, scienziati e così via. Ebbene, l'intelligenza non si trasmette per contatto, forse può accadere col potere e la ricchezza, ma sono eccezioni e non rendono certo la persona più nobile. Anzi, con molto realismo, come dice il filosofo, neanche i beni materiali si ottengono per mero rapporto esteriore. Di certo questo non accade con la sapienza. E poi il memorandum del nostro direttore Roberto Napoletano, Quei sassi diffusi del triangolo emiliano, è un reportage dall'assemblea degli industriali di Modena con l'ennesimo, ma sempre declinato in modo diverso, invito a guardare all'Italia che fa, in questo caso quella appunto degli industriali di Modena, e a cercare anche di trarne una lezione, visto che è proprio l'Italia manifatturiera quella su cui anche l'Europa dovrebbe puntare. La copertina, il titolo di apertura però vero e proprio, è dedicato è un lungo articolo di Remo Bodei, che in realtà anticipa un incontro che ci sarà domani alla Fenice di Venezia, che inaugurerà le 5 meditazioni filosofiche Identità, differenze e conflitti. Il titolo è Riaccordiamoci col mondo, e si prende spunto dalla musica per appunto fare un ragionamento filosofico su quanto ci può aiutare. A proposito di musica, a pagina 40 del domenicale, la recensione di un bellissimo libro, credo, insomma bellissimo, in realtà sono tre libri, di Alberto Basso su Bach, Manuale di navigazione, L'enigma tra le dita di Bach. Insomma, Bach è talmente un universo che non basteranno mai le biografie e le riflessioni su questo immenso genio della musica. La lettura del Corriere della Sera, la copertina è un arcobaleno fatto in realtà a Photoshop di Cory Arcangelo, un artista americano, e poi dalle pagine interne vi segnalo un bellissimo approfondimento su un altro filosofo, oggi un po' tempo di filosofia, Kant, grandissimo, immenso Kant. Fino al 2024 ci sarà un decennio di celebrazioni per i 3 secoli della nascita di questo genio che ha effettivamente trasformato il pensiero occidentale. Tutti kantiani, anche a nostra insaputa, ci racconta Donatella di Cesare. Il filosofo umiliò la ragione, ma solo per salvarla e liberarla, perché siamo noi a dar forma al mondo senza crearlo. Un altro bellissimo articolo di Giulio Giorello, filosofo della scienza, intitolato Sei bella come un parallelogrammo, che prende spunto da 4-5 libri tutti dedicati ai numeri, alla matematica. I numeri sono meravigliosi e fondamentali, vince il primo che capisce che 3 è più di 2. E un po' il riferimento anche a quanto a volte la matematica, così per partito preso, ci sembra ostica, e forse anche grazie ad alcuni grandi divulgatori possiamo capire che in realtà può anche essere molto divertente. La copertina della Domenica della Repubblica invece è dedicata all'ultimo libro di Sebastião Salgado, il grandissimo fotografo brasiliano, che qui racconta soprattutto l'invenzione del caffè, la genesi della bevanda povera diventata ricca, e con appunto un accenno al libro, alle fotografie che contiene, ma anche alla storia appunto del caffè. Della serie Straparlando, sapete le interviste di Antonio Gnoli, quelle bellissime su 2 pagine, oggi l'intervistata è Renata Scotto, una soprano italiana che anche lei, come sempre, racconta un po' la sua vita, ma anche aneddoti sulla sua vita personale, ma anche d'artista. Giocando a poker tornavo ragazza insieme ad Abbado e Pavarotti. Naturalmente le vite di questi grandi artisti, questi grandi personaggi, protagonisti della cultura italiana, si intersecano poi con quelle di altri, di cui poi Agnoli riesce a far raccontare degli aneddoti. Dal Messaggero, la copertina di Macro, il supplemento della culturale, si intitola Infedeli ma innamorati, e prendendo spunto da un romanzo di Eliza Kennedy che racconta un po' i tormenti di una donna che alla vita coniugale si avvicina a modo suo, cioè tradendo, c'è poi tutto un excursus su come si può appunto forse vivere in questo paradosso, cioè essere infedeli ma comunque innamorati, poi ognuno giudichi. Vi segnalo infine dal Giornale, molto divertente, 2 pagine, la squadretta della cultura italiana messa insieme da Luigi Mascheroni, con i ritratti sicuramente molto ironici, anche taglienti, di quella che appunto viene definita la squadra della cultura italiana, con alcuni che sono arbitri, altri alle destre, altri insomma, con un parallelo con il mondo del calcio. Purtroppo il tempo è quasi finito, ma davvero oggi i giornali, soprattutto le pagine culturali, ricchissimi di approfondimenti. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, una buona domenica da Giulia Crivelli.